Focus Economia. Con Deborah Rosciani. E quasi 07, buonasera a tutti da Deborah Rosciani, benvenuti a Focus Economia, il punto della giornata economico-finanziaria. Parleremo di mercati, naturalmente il punto della giornata è di nuovo positivo, Milano si avvia a chiudere la sua giornata, anche se manca una mezz'oretta circa, la chiusura definitiva delle contrattazioni con un rialzo di oltre mezzo punto percentuale, oggi molto bene alcune banche, ma ritornano gli acquisti sul settore della moda, del lusso, Yux è il miglior titolo, guadagna il 6,51%, Benin e le altre piazze europee, leggermente negativa Francoforte, Wall Street consolida i suoi record recenti, lo Standard & Poor's rimane sopra i 2000 punti, quindi un quadro ancora positivo tra i mercati azionari, favorito come sapete dalle promesse fatte da Mario Draghi sul mantenimento di una politica monetaria molto espansiva, ma soprattutto dalle promesse dell'arrivo di altre iniziative di stimolo monetario straordinarie, non convenzionali, quindi il mercato aspetta il nuovo quantitative easing, quello in versione europea, ma c'è un ma. Poteva non farsi sentire la Germania sulle dichiarazioni di Jackson Hole di Mario Draghi e infatti proprio nel pomeriggio un'intervista sulla stampa tedesca, da parte di Schäuble, il ministro delle finanze tedesco, che è sceso in campo con toni proprio da falco sulle esternazioni di Mario Draghi al summit dei banchieri centrali di Jackson Hole, che invece aveva parlato da colomba, come dice qualche giornale. E chiaramente Schäuble che cosa ha detto? Ha detto guardate che le parole di Draghi sono state assolutamente fraintese, io lo conosco molto bene, non ha detto quello che il mercato sta pensando. Devo dire che in questo momento il mercato non ha dato nessun peso alle dichiarazioni di Schäuble e quindi vedremo poi nelle prossime ore se verranno analizzate ulteriormente ed interpretate appunto diversamente. In realtà è un quotidiano tedesco quello a cui Schäuble ha rilasciato le sue dichiarazioni, scusate. Poi questo appunto è un tema che sicuramente affronteremo con uno dei primi ospiti di oggi, avremo l'economista Fiorella Costoris, dalla quale però aspettiamo anche un commento su altri dati economici italiani che sono arrivati oggi. La fiducia dei consumatori cala in maniera molto consistente ad agosto e cala più del previsto. Che ci sia larga sfiducia in Italia, questo lo sappiamo bene, ma insomma questo indicatore continua a scendere e non è un buon presagio per i prossimi mesi. Peggiorano appunto i giudizi sulla condizione corrente per quello che riguarda la situazione economica dell'Italia. Vedremo se questa fiducia sarà un po' rialzata dai provvedimenti che venerdì ci si attende dal Consiglio dei Ministri con il pacchetto Sblocca Italia ed altre iniziative che Matteo Renzi appunto intende intraprendere in questo ultimo Consiglio dei Ministri di agosto per poi riprendere i lavori molto importanti da settembre dell'attività di governo. A proposito peraltro di crisi italiana, c'è un altro tema molto importante. Oggi è stato decisamente preoccupante questo dato che è stato diffuso da contribuenti.it, associazione contribuenti italiani, che ha avuto la sua assemblea straordinaria. Questa associazione ha avuto la sua assemblea straordinaria ed è stato diramato un rapporto molto preoccupante sull'usura in tutta Italia, che sta letteralmente dilagando. Ci sono delle regioni particolarmente colpite da questa piaga, una di queste è la Campania, proprio per la grave situazione di difficoltà economica in cui versano famiglie e piccole imprese. Pensate che in un anno c'è stato un aumento del 203% di prestiti usurari che evidentemente appunto queste persone, questi imprenditori e queste famiglie sottoscrivono. Faremo poi un dettaglio più ampio di questo rapporto diffuso oggi. Poi parleremo delle vicende di Casa Telecom, parleremo anche di una vicenda tutta milanese che riguarda il quadrilatero della moda, perché il TAR oggi ha bocciato praticamente una delibera comunale, oggi questa notizia appare sui giornali, è stata giudicata illegittima una delibera comunale dell'amministrazione chiaramente milanese, che prevede il raddoppio dei canoni d'affitto in caso di subentro nei negozi, nella galleria Vittorio Emanuele, e si parla appunto di un duro colpo a quest'area. Dove si fanno naturalmente grandi affari grazie soprattutto ai turisti che apprezzano moltissimo il quadrilatero della moda. Poi ne faremo un punto con la collega Michela Finizio, che ne ha scritto oggi sul Sole 24 Ore. Insomma, tanti argomenti anche questa sera. 349-238-6666 il numero se volete per i vostri messaggi. Adesso andiamo alle altre notizie, alle notizie in breve. cominciare, oro in calo a 1.284 dollari l'oncia e il petrolio stabile a quasi 94 dollari al barile. La direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde, ha annunciato di essere indagata da ieri per negligenza nell'inchiesta, in una vecchia inchiesta, sull'arbitrato fra l'uomo d'affari Bernard Tapie e la banca Crédit Lyonnais. Torna a lavorare a Washington da questo pomeriggio, in questa maniera ha commentato queste notizie la Lagarde e ha risposto all'agenzia francese France Presse, che le ha chiesto se aveva intenzione di dimettersi dopo questa incriminazione appunto per negligenza. Il direttore generale del Fondo Monetario Internazionale in ogni caso ha detto che informerà il board del Fondo Monetario il prima possibile su questo caso. Sto tornando a Washington, ha detto oggi, e quindi informerò gli altri membri del Fondo Monetario il prima possibile. Andiamo alle vicende invece economiche più importanti forse di questa vecchia vicenda della Lagarde. Il rischio di deflazione è ancora chiaramente presente nell'area euro e in alcuni paesi è una realtà. Lo ha affermato oggi il capo economista del Fondo Monetario Internazionale, Olivier Blanchard, su Finance and Development, la rivista del Fondo Monetario. E a proposito di questioni economiche internazionali, appunto, vi ribadisco quanto vi ho anticipato prima. Il ministro tedesco delle finanze Schäuble ha commentato le recenti dichiarazioni di Mario Draghi sulla necessità di un allentamento ulteriore delle politiche di rigore. Schäuble ha detto le sue parole, le sue dichiarazioni sono state interpretate troppo in una direzione. Conosco Draghi molto bene, credo che sia stato frainteso. A causa delle crisi internazionali in Ucraina e Medio Oriente, la congiuntura in Germania è un po' offuscata, ha detto ancora Schäuble. Questo l'abbiamo capito anche noi, perché oggi è stato diffuso un indicatore sulla fiducia anche della Germania. Abbiamo visto poi l'IFO tedesco, l'indicatore di fiducia delle imprese, che lo stesso è sceso molto nelle ultime rilevazioni. Ci aspettiamo un aumento dei prezzi fino al 2% e fino al 3,5% di crescita nominale, ha detto però senza specificare l'anno a cui queste percentuali di crescita si possano riferire. Dicevamo la fiducia in Germania, poi parleremo anche di quella italiana. Le incertezze dell'economia legate alle crisi internazionali iniziano a pesare anche sull'inclinazione al consumo dei tedeschi. Ad agosto, per la prima volta da oltre un anno e mezzo, l'indice GfK, che misura la disposizione agli acquisti in Germania, ha registrato un calo, passando da 8,9 punti a 8,6. BlackRock, il più grande fondo di investimento mondiale, che peraltro ha anche una larga presenza in tante società italiane, da qualche tempo ha acquisito partecipazioni rilevanti in molte banche e società appunto di altro tipo quotate a Piazza Affari. BlackRock appunto sarà il consulente della Banca Centrale Europea per mettere a punto il programma di acquisti di ABS, titoli garantiti a sostegno delle piccole e medie imprese, programma di acquisti appunto che è stato annunciato dalla BCE a giugno. Oggi questa notizia è stata riferita da Bloomberg, secondo cui un portavoce della BCE ha spiegato che la società americana darà consigli per preparare e lanciare questo piano per l'acquisto di ABS. Nell'accordo sono incluse anche clausole per prevenire potenziali conflitti di interesse. Una decisione finale comunque su questo piano sarà presa dal Consiglio della Banca Centrale Europea. Mercati finanziari, spread oggi ancora giù, ma soprattutto è andato molto giù il tasso chiesto dal mercato all'asta bot a 6 mesi organizzata, prevista questa mattina da parte del Ministero dell'Economia, che ha piazzato 7 miliardi e mezzo di titoli con scadenza a 6 mesi, e il rendimento è scivolato allo 0,13% contro lo 0,23% dell'operazione di un mese fa. In concomitanza di questa operazione è continuato a scendere anche lo spread fra BTP e Bund, che dopo il ribasso già segnato ieri, oggi è scivolato ulteriormente e siamo arrivati a 146 punti base. Il rendimento del titolo decennale è scivolato al suo nuovo minimo, al 2,36%. Anzi, lo spread è arrivato a 145, vedo dalle nostre notizie. E la fiducia dei consumatori poi la commenteremo tra un attimo. Italiana scende ancora ad agosto, l'indice arretra a 101,9 punti da 104,4, si tratta del terzo calo consecutivo. Per trovare un valore più basso bisogna tornare indietro a marzo. L'Istat spiega che è il peggioramento particolarmente diffuso, ma a cedere più punti è il clima economico sulla situazione del paese. I consumatori italiani ad agosto mostrano preoccupazione per la situazione economica italiana, sia rispetto alle condizioni attuali che future. Soprattutto le previsioni sulla disoccupazione indicano un aumento, passando alla sfera familiare. Se i giudizi sulla situazione economica domestica migliorano lievemente, le prospettive invece si deteriorano. Sempre stando ai dati Istat, emerge incertezza anche sul versante della capacità di risparmio. Oggi Corriere della Sera ha intervistato il ministro dell'Economia Piercarlo Padoan, che ha spiegato che nella ricerca dell'efficienza si possono mettere in discussione anche le posizioni acquisite. Siamo pronti a risparmiare su tutto, i tagli sono necessari, ma gli obiettivi dei tagli di spesa terranno conto del quadro economico peggiorato, ha detto il ministro. Tutta la spending review è un'operazione altamente politica, si tratta di individuare le priorità e in un periodo di risorse limitate. È un'operazione politica valutare se la spesa che si è accumulata nel tempo si debba considerare acquisita o se non si debba ripensare. Alcuni tagli permanenti sono già stati introdotti con il decreto sul bonus, quello evidentemente da 80 euro in busta paga da maggio dei lavoratori italiani. La spending review sarà lo strumento guida nella formulazione, ha detto Padoan, della legge di stabilità. E per quello che riguarda l'arrivo del decreto Sblocca Italia previsto per venerdì, c'è una stretta in arrivo sulle partecipate degli enti locali, che hanno fatto un gran parlare di sé in questi giorni sui giornali. Si va verso l'eliminazione, dicono alcune fonti di Palazzo Chigi, delle società che non emettono servizi essenziali, incentivi all'aggregazione e incentivi alla quotazione per chi fornisce servizi di trasporto pubblico e rifiuti, anche se naturalmente sempre da Palazzo Chigi si apprende che scelte definitive su questa riorganizzazione non sono ancora state fatte. Direi che con le notizie in breve possiamo anche concludere qua. Andiamo al nostro primo approfondimento di oggi. Volevamo partire con un commento sul dato relativo alla fiducia dei consumatori italiani, in calo più del previsto ad agosto. Ci sono alcuni ascoltatori che ci stanno chiedendo: Deborah, ci racconti un po' di buone notizie, oggi ce la farà Draghi a convincere la Germania? Ma insomma, chiediamo un po' un commento su tutto questo alla professoressa Fiorella Costoris, economista e docente all'Università La Sapienza di Roma, che salutiamo. Buonasera professoressa Costoris, grazie. Buonasera a voi. Buonasera. Sappiamo che ha molta fretta, la tratteniamo poco, ma sappiamo anche che se vuole appunto è molto incisiva con i suoi commenti sulla fiducia dei consumatori calata più del previsto ad agosto. Dobbiamo stupirci? C'è un quadro di deterioramento della fiducia generalizzato in tutta Europa che colpisce adesso anche la Germania. Per quello che riguarda l'Italia, è sorpresa dal dato di oggi? Ma purtroppo non sono sorpresa, perché questo dato segue a quello dei due mesi precedenti in cui il clima di fiducia era in calo, e d'altra parte sappiamo che l'Italia è di nuovo, secondo i dati dell'Istat sul prodotto interno lordo, in una fase di recessione. Tuttavia vorrei dire che le informazioni che l'Istat ci fornisce sono un po' alternate e danno segnali diversificati, perché per esempio per quanto riguarda l'inizio dell'estate l'andamento della produzione industriale sembrava in crescita e la stessa occupazione non era andata così male, quindi fondamentalmente io ritengo che siamo in una fase nella quale la crisi per certi versi non sta peggiorando, però la ripresa in Italia non è ancora ricominciata. Insomma, è una situazione un po' alternante, perciò difficile anche da interpretare. Certo, se questo dato della fiducia dei consumatori indicasse qualche cosa di significativo per i tre mesi di giugno, luglio, agosto, dovremmo immaginare che la recessione già evidenziata dalle informazioni dell'Istat per i primi due trimestri dell'anno in corso dovrebbe mantenersi ulteriormente, purtroppo, anche nel terzo trimestre. Professoressa Costoris, condivide le priorità che si è dato il governo, per esempio sulla base di quello che prevede di fare venerdì con il Consiglio dei Ministri? C'è questo attesissimo Sblocca Italia, anche se già in molti quantificano che le risorse previste naturalmente per far riprendere l'attività, molti cantieri fermi e quant'altro, appunto non siano i residenti state molto sopravvalutate. Lei che cosa ne pensa? Ma io penso che il decreto sblocca Italia sia importante, e in particolare credo che sarà importante cercare di riprendere l'accumulazione, gli investimenti che sono stati sicuramente in fortissimo calo durante tutto il periodo degli ultimi anni, non solo degli ultimi mesi. D'altra parte sono importanti anche altre misure che il governo intende prendere, per esempio nel campo della scuola, sono investimenti quelli di tipo capitale umano invece che capitale reale. Non illudiamoci tuttavia che queste forme di investimento diano luogo a crescita di breve periodo, sono estremamente significative, ma data la fase lunga di cantiere e poi la fase di regime successiva, probabilmente gli effetti di una nuova accumulazione pur auspicabile saranno lontani. Quindi non ci dobbiamo aspettare neanche degli effetti dirompenti da questa serie di misure a livello di mercato del lavoro, perché lì l'emergenza vera, lo sappiamo bene, è quella, professoressa Costoris. Infatti io ritengo che dal punto di vista del mercato del lavoro ci voglia qualche cosa che sia più legata a una domanda corrente, per esempio la misura degli 80 euro dovrebbe essere confermata, allargata su tutta la platea dei contribuenti e degli occupati italiani. In questo caso io penso che l'efficacia della misura diventerebbe evidente, per ora non lo è stato perché sono passati troppo pochi mesi da che si è iniziato, e poi c'è anche lì un'alternanza di notizie, c'è chi dice che durerà, c'è chi dice che non durerà, c'è chi dice che verrà allargata ai pensionati, altri invece dicono che no, insomma gli incapienti, ci sono tante notizie che tendono a creare una situazione di instabilità e di timori, e quindi non inducono a spendere, ma è dalla spesa per consumi che mi aspetto una funzione di moltiplicazione a breve periodo sui redditi e quindi sull'occupazione. Senta, invece guardando naturalmente, visto che l'Italia non può fare a meno neanche di tenere in considerazione quello che succede al di fuori dei propri confini, naturalmente guardiamo con grande attenzione alle iniziative che arriveranno prossimamente da Francoforte, questo nuovo allentamento monetario. Secondo lei, sull'Italia, a prescindere dall'effetto che si ha sul mercato del debito pubblico, sul mercato appunto delle obbligazioni, con lo spread che continua a ridursi sulla Germania, i rendimenti dei titoli di Stato che continuano a scivolare, appunto altri effetti sull'economia reale, secondo lei li vedremo o no prima o poi? Perché abbiamo visto con grande chiarezza come tutta questa liquidità in circolazione stia finendo sul mercato delle obbligazioni e sul mercato delle azioni, perché le borse sono sui massimi, ma l'economia reale, questo denaro quando arriva? Ma io credo che ci saranno due altri effetti importanti. Innanzitutto non è escluso che la nuova espansione monetaria che si prevede di svolgere da Francoforte sia fatta, intesa e operativamente diventi uno strumento per allargare il credito delle banche alle imprese, quindi non per incrementare la domanda di titoli che possono far fiorire e crescere le borse, ma non le nostre imprese. Quindi c'è probabilmente un programma per un'espansione monetaria finalizzata allo scopo del credito alle imprese, questo sarebbe estremamente utile. Un altro aspetto che secondo me si dovrà prendere in considerazione è che se si prevede, come si prevede in questo momento, che la Banca Centrale Europea continui con una politica espansiva monetaria, anzi più espansiva che in passato, mentre la Federal Reserve americana si appresta, a quanto apprendiamo dalle dichiarazioni della governatrice Yellen, a tenere invece una misure un po' meno espansive che in passato, probabilmente questo dovrebbe dare luogo a una rivalutazione del dollaro nei confronti dell'euro, e questo faciliterà sicuramente le esportazioni dell'Eurogruppo nei confronti del resto del mondo. Lei è della corrente di chi pensa che siamo in deflazione o di chi pensa che stiamo correndo un rischio deflazione? Quanto costa questo problema all'Italia? Secondo me siamo certamente in una fase di inflazione calante, ma non ancora di deflazione in senso stretto, cioè con diminuzione dei prezzi generalizzata. Credo che questo sia un problema in generale, perché la deflazione spesso si accompagna a un ristagno e addirittura a crisi economica. Non credo che sia però il principale problema che corre per esempio l'Italia in questo momento. L'Italia purtroppo ha una serie di ragioni di natura strutturale che impediscono in verità di avere un'inflazione che diventi negativa. Insomma, quando in altri paesi l'inflazione diminuisce, in Italia continua a essere relativamente più alta che altrove. Un'ultima domanda, poi la lascio, professoressa Costoris, perché naturalmente in questi ultimi minuti ci hanno incuriosito. Per la verità io mi sono detta, strano che fino adesso non avessero parlato le dichiarazioni di Schäuble sulle dichiarazioni precedenti di Draghi a Jackson Hole, no? Proprio sul tema della politica monetaria ulteriormente espansiva che Draghi ha promesso, perché il mercato lo chiede a gran voce. In realtà Schäuble ha detto, ma è stato frainteso, adesso ricominciamo un po' questo giochetto, no? Sull'interpretazione delle dichiarazioni. Nel frattempo oggi dalla Germania pure abbiamo avuto un indicatore di fiducia che è risultato calante. Di che cosa hanno da lamentarsi i tedeschi? Guardi, storicamente, che cosa hanno da essere sfiduciati? E per ragioni anche comprensibili, i tedeschi temono l'inflazione più di qualunque altro elemento e vogliono il rigore più che lo sviluppo. Ritengo che altri paesi dell'Unione Europea invece abbiano bisogno di, da un lato, di fare i compiti a casa, e cioè di fare le riforme strutturali come dice Draghi, ma dall'altro lato di essere aiutate in una crescita che è tanto meno inflazionistica quanto più è concordata all'interno dell'Unione Europea. Quindi io concordo perfettamente, sono perfettamente d'accordo con Mario Draghi sulla sua posizione, e cioè i paesi come l'Italia che hanno un rischio o una presenza di crisi e di ristagno di lungo periodo devono da un lato fare le riforme strutturali, ma dall'altro lato devono essere aiutate nella crescita attraverso misure di incremento della domanda che saranno tanto più efficaci e tanto meno inflazionistiche quanto più saranno concordate a livello dell'Unione Europea. Chiarissimo, grazie, buona serata e buon lavoro. Grazie, a presto. A noi ci fermiamo adesso e direi che possiamo cambiare, come dire, soundtrack, colonna sonora, per andare, se ce la facciamo, Pietro, naturalmente, al nostro prossimo approfondimento. C'è poco da essere fiduciosi se nel nostro paese, poi naturalmente leggiamo anche di notizie come quella che fra un po' vi leggo e commento con chi l'ha diffusa oggi. Andiamo subito allora al nocciolo della questione. Nel 2014 dilaga l'usura in tutta Italia, in particolar modo in Campania, e questo naturalmente è il frutto della grave situazione di difficoltà economica in cui versano le famiglie e le piccole imprese. Il sovraindebitamento delle famiglie, e la statistica si ferma a luglio 2014, cresciuto sull'anno del 292%. Buonasera a Vittorio Carlo Magno, presidente di Contribuente.it. Buonasera a tutti voi. Oggi la vostra associazione ha fatto la sua assemblea straordinaria. Beh, certo che per, come dire, comparire domani sulla prima pagina di tutti i giornali avete trovato il tema ideale, Carlo Magno. Ci racconta un po' come avete condotto questo monitoraggio e appunto qualche dettaglio in più rispetto a queste cifre percentuali drammatiche? Beh, innanzitutto certamente non saremmo voluti finire sulle prime pagine dei giornali, perché la questione dell'usura è una questione delicata, è una questione dove ogni anno muoiono tante persone per usura, quindi preferiremmo andare sulle prime pagine magari dicendo qualche fatto positivo. Non sempre è così, purtroppo in questo momento in Italia la situazione è tragica, sappiamo benissimo che le banche hanno chiuso il credito sia alle famiglie sia agli imprenditori, e in modo particolare vediamo il dilagarsi dei fenomeni come il gioco d'azzardo, come i compraoro, come la riscossione dei tributi a rate, che mandano tantissime persone per poter far fronte a questi debiti in mani degli usurai. Noi chiediamo una grande attenzione del governo su questi temi. misura è un tema delicato in Italia, non si registra in altri paesi europei questo fenomeno, c'è bisogno di combattere l'usura, ma c'è bisogno di combattere l'usura con strumenti ad hoc. Chi sono questi nuovi usurai, Carlo Magno? Perché mi viene anche da chiedermi appunto dove si annidano tutte queste persone che hanno questa liquidità da erogare a chi è in difficoltà, firlo naturalmente a stringerli in una maniera così, così grave. Beh, sappiamo bene che dietro gli usurai molto spesso si annovera la criminalità organizzata e sono gli unici che in questo momento hanno disponibilità economiche. Oggi la criminalità organizzata sta dilagando in tutta Italia e ovviamente vanno a rilevare imprese, vanno a distruggere famiglie e cercano di fare business, lasciando ovviamente all'ex imprenditore esclusivamente facendolo fare la testa di legno. E quello che purtroppo non si riesce a comprendere è che si sta radicando su tutto il territorio nazionale questo aspetto. E in tutte le regioni vedo che c'è stata questa crescita del ricorso all'usura a tre cifre ovunque, non c'è nessuna regione che ha un ricorso a due cifre. Esatto, esatto, perché la contrazione che vi è stata in questi anni del credito bancario è spaventosa e quello, il dato che noi lanciamo non è soltanto un sovraindebitamento nei confronti di istituti finanziari, ma è sovraindebitamento nei confronti delle persone, delle famiglie. Cioè noi in Italia non viene monitorato il debito che una famiglia contrae con i parenti. Figuriamoci se si riesce a rilevare, voglio dire, quello che si contrae con un usuraio. Con un usuraio. E sappiamo bene ora quanta attività viene posta in essere e alcuni, ovviamente dai nostri studi, emerge che la liquidità che hanno in mano la criminalità organizzata è una liquidità che mai hanno avuto prima. Cioè non si riescono a colpire questi centri di finanziari, ripeto, centri finanziari illegali che continuano a prestare soldi a tassi di interesse spaventosi. A quanto, per esempio? Perché questa parte del vostro rapporto non l'ho letta. Che tipo di tassi di interesse? Vabbè, ce lo possiamo immaginare. Si parte praticamente da un 60% all'anno, ma si arriva anche a oltre il 100% all'anno. Di solito andiamo verso, diciamo, quello che abbiamo rilevato è un 10% mensile, certo, con cui viene prestato il denaro in Italia. Un vero e proprio allarme, direi che possiamo lanciare allora oggi anche da Focus Economia, ma sicuramente questa notizia domani sui giornali la ritroveremo ben documentata. E ricordo un ultimo dato diffuso appunto da contribuenti.it: in Italia nel 2014 sono a rischio d'usura 3.800.000 famiglie e 3.400.000 imprenditori. Grazie. Diamo soltanto questa particolare notizia, ricordiamo che con lo sportello antiusura, sì, e con i dati sono stati monitorati dal Centro Studi Ricerche Sociologiche Antonio Di Benedetto, dove abbiamo una grande cluster di persone che vengono analizzate. Tutte le fondazioni, certo, antiusura oggi in Italia, sono 32 le fondazioni antiusura in Italia, sono ingolfate di richieste di assistenza. Chiunque abbia bisogno può rivolgersi ad una delle fondazioni antiusura della Consulta Nazionale delle Fondazioni. E quindi anche questo è un tema importante, peraltro, Carlo Magno, perché possiamo ben immaginare quando una persona cade in una trappola di questo tipo come faccia fatica naturalmente anche a rivolgersi ad uno sportello di aiuto come quelli che lei ci ha indicato, perché immaginiamo quanta vergogna anche ci possa essere. Grazie a Vittorio Carlo Magno, presidente dei contribuenti.it, buona serata. Grazie a tutti. Buon lavoro, adesso andiamo in pausa e poi torniamo con la giornata di borsa, con le vicende Telecom e non solo. Un'informazione di servizio prima del racconto della giornata di borsa. Insomma, se siete dei professionisti, gli imprenditori, volete migliorare il vostro inglese, adesso faccio un po' un annuncio pubblicitario, però insomma domani c'è un'iniziativa interessante del Sole 24 Ore, vi invitiamo un po' a monitorarla, a tenerla sotto controllo, si chiama Business English 24, è un corso multimediale per superare le difficoltà nell'utilizzo dell'inglese, soprattutto in ambito professionale, visto che non facciamo altro che parlare di quantitative easing, di spread, di tante altre questioni appunto utilizzando solo ed esclusivamente termini internazionali, inglesi appunto nella fattispecie, non magari può esservi utile. Adesso la giornata di borsa. Milano, chiusura della giornata con un più 0,57%, grazie a chi? Ce lo racconta Guido Maurino di Radio Cori, il Sole 24 Ore. Guido, buonasera. Buonasera. Allora, cominciamo dalla regina della giornata, IUX, più 6,72%. Sì, per l'operatore di commercio italiano oggi è stata un'ottima giornata. Piazza Affari ha approfittato dei rumor che riguardano un'altra società di e-commerce, questa volta inglese, che si chiama Asos, che ha guadagnato oltre il 10% la borsa di Londra, perché ci sono alcuni rumor secondo cui i grandi colossi come Amazon e eBay si starebbero interessando a questa Asos, e quindi c'è un'attenzione del mercato sul settore del e-commerce, e IUX ne ha beneficiato. Ne ha beneficiato. Oggi. Comunque anche, vabbè, passato un bel po' di tempo, se non mi ricordo male, nel 2013 è stato in assoluto il miglior titolo di Piazza Affari. Sì, è stato nel 2013, invece quest'anno non era andato proprio benissimo, la performance è tipo meno 37% a Piazza Affari, però. Bene, bene, non tanto per IUX, però insomma recupererà, almeno speriamo per loro. UbiBank più 5,17% e poi le popolari, insomma per le banche questo è il trio che oggi ha fatto meglio. Sì, le banche continuano ad andare molto bene con i rendimenti dei titoli di Stato che si riducono, bene in particolare UBI più 5,17%, ma anche Popolare di Milano più 4,29%. Per quello che riguarda appunto la BPM si torna a parlare di una riforma della governance, anche perché ci sono alcune indicazioni che sono arrivate dalla Banca d'Italia che riguardano un po' tutto il settore bancario, tutte le banche che hanno un consiglio di gestione, uno di sorveglianza su come devono essere distribuiti i vari poteri all'interno della banca. Potrebbe essere l'occasione per una riforma più complessiva della governance della Popolare di Milano, e oggi il titolo ne ha approfittato. Vitale, come noi parliamo tra poco con una collega del Sole 24 Ore, però magari 30 secondi di anticipazione di questa seduta movimentata te li concedo, Guido. Ok. No, Telecom Italia ha guadagnato il 3,17%, oggi appunto c'è tutta l'attenzione sul CDA che è ancora in corso della società per esaminare e preparare l'offerta per l'operatore brasiliano GVT di proprietà di Vivendi. Siamo ancora in attesa di capire quali sono gli elementi dell'offerta, per cui insomma in attesa. Oggi oltretutto c'è stata anche una mossa un po' a sorpresa, forse anche una mossa di disturbo di un operatore brasiliano che si è detto interessato a lanciare un'offerta su Team Brasil, quindi sulla controllata brasiliana di Telecom Italia. C'è molto fermento sulla compagnia telefonica. Infatti, World Duty Free più 3%, questo titolo sta andando benino da qualche giorno, se non mi ricordo male, forse beneficia anche del dollaro che sta riprendendo quota sull'euro. Poi bene Salvatore Ferragamo più 2,18%, nel settore assicurativo Unipol Sai più 1,78%, Buzzi Unicem più 1,78%, andando invece dall'altra parte della classifica vediamo che oggi è stata una giornata negativa per STM, meno 0,8%. Ci sono delle ragioni? Guarda, c'è un report di Credit Suisse che ha avviato la copertura sul titolo con un giudizio negativo. Pesa sulla società le attese per quello che sarà il proseguo dell'anno e quello che saranno i prossimi anni. Secondo gli analisti potrebbe fare peggio del mercato e potrebbe anche non rispettare i target relativi a quest'anno. Per cui insomma un sentiment in parte negativo che si è poi riflesso anche su molti titoli industriali oggi. No, tra l'altro stavo adesso, mentre tu mi raccontavi di STM, monitorando un po' i messaggi degli ascoltatori. Prima abbiamo parlato dell'usura che colpisce sempre più imprenditori e famiglie, qualche ascoltatore, addirittura qualcuno che lavora in banca, ci racconta, e ci credo, che finiscono così. Noi in banca non eroghiamo quasi nulla, anche se adesso l'erogazione di credito ufficiale, diciamo, ha ripreso a marciare, ma ancora non quanto avrebbe bisogno il sistema per riprendersi appunto da questa crisi gravissima. E quindi niente, Guido, così insomma in diretta ti racconto anche questo. Altri titoli che oggi sono andati male, vedo complessivamente un po' il settore industriale. Sì, settore industriale oggi non si è mosso bene, in parte si tratta di prese di beneficio visto che arrivava da alcune sedute positive, in parte c'è anche questi dati che continuano ad arrivare sulla fiducia dei consumatori. Questa mattina c'è stata la fiducia dei consumatori in Italia, ma anche quella in Germania, che segnalano un raffreddamento del clima da parte dei consumatori, una certa freddezza e quindi anche una certa preoccupazione sullo stato generale dell'economia. Ne hanno risentito un po' tutti una giornata di prese di beneficio, perché CNH ha ceduto lo 0,74%, Pirelli lo 0,42%, Prysmian 0,32%, insomma non una grande giornata per il settore. Guardavo poi un meno 0,3% su Generali, su Banca Monte dei Paschi, è comunque andata molto bene per diversi giorni. Credo che nelle prossime ore si riunisca la fondazione, Guido. Sì, c'è comunque sempre questa attesa per capire quali saranno le prossime mosse della fondazione, chi entra in CDA e anche poi quali potrebbero essere gli assetti di controllo, visto che c'è il presidente della Fondazione Monte dei Paschi ha dichiarato l'intenzione di allargare il patto di sindacato. Rimangono tanti i temi che riguardano Monte dei Paschi e la sua fondazione, esatto, il suo assetto proprietario. Abbiamo poi un caso da raccontare fra i titoli minori. Quali oggi ti hanno stuzzicato? Allora, fra i titoli minori oggi possiamo segnalare Bolzoni, che ha guadagnato il 12%, questa settimana è un po' la ripresa delle attività economiche, anche quelle borsistiche, sono arrivate oggi alcune trimestrali e semestrali e arriveranno domani. Bolzoni in particolare domani presenterà i suoi risultati relativi al primo semestre e c'è un'attesa positiva sul titolo, oggi ha guadagnato quasi il 12%. Stavo cercando di capire che tipo di attività svolgesse questo gruppo, vedo carrelli elevatori, qualcosa del genere? Sì, nella meccanica in qualche modo. Esatto, vedo anche che è ben presente anche sui mercati internazionali, investimenti in Cina, sto leggendo rapidamente appunto alcune notizie che avete pubblicato voi. Abbiamo terminato con i casi di borsa, Guido, abbiamo altro da raccontare? No, direi di no. Wall Street intanto vedo che rimane sui massimi, lo Standard & Poor's fermo proprio sulla parità, non ha assolutamente intenzione di scivolare al di sotto di questo record. Se guardate oggi il grafico dello Standard & Poor's, oggi quello dell'ultimo periodo, è veramente incredibile, si impenna letteralmente l'indice. Grazie a tutta, appunto, ancora lo ricordiamo, la liquidità in circolazione, ma non solo, quantomeno nell'economia americana, qualche segnale di ripresa lo abbiamo. Grazie Guido, buona serata. Grazie a voi. Pausa, suggerimenti per chi è in viaggio, poi vi andiamo a raccontare le notizie della giornata di Telecom. Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Allora, ci devi aiutare a dipanare questa intricatissima matassa di questa vicenda, appunto, che in qualche maniera intreccia il Brasile, la Francia e l'Italia. Intanto cominciamo con l'Italia e anche il Portogallo. Ecco, da esatto, oggi. Tanto bene. Tutti i paesi periferici li abbiamo messi dentro, praticamente. Esatto. Allora, abbiamo un consiglio di amministrazione di Telecom che è iniziato a mezzogiorno, ma secondo quanto ha detto anche oggi oggi Tarak Ben Ammar, mi pare che continuerà ancora per diverse ore. Che cosa c'è all'ordine del giorno? Facciamo un punto della situazione su questa vicenda, Laura. All'ordine del giorno c'è la delibera per approvare una possibile offerta su GVT, l'asset brasiliano di Vivendi. È un'offerta in realtà tutto campo che non riguarda soltanto l'asset, ma che sostanzialmente comporterebbe anche un riassetto dell'azionariato di Telecom. Telecom chiede sostanzialmente a Vivendi il conferimento di quell'asset in cambio di una valutazione attorno, sono solo rumor per ora, si dice attorno ai 7 miliardi, e in cambio gli offre azioni Telecom, azioni della futura società che nascerà dalla fusione tra TIM Brasil e GVT e una componente cash. Il consiglio di amministrazione sostanzialmente sta valutando questo, ma sul tavolo probabilmente sarà arrivato anche il nuovo dossier emerso questa mattina, ossia il fatto che Oi, altra compagnia brasiliana, ha preannunciato l'intenzione di valutare un'offerta per acquistare TIM Brasil, l'operatore brasiliano nel mobile di Telecom Italia, complicando ulteriormente infatti scenario. Certo che per ricostruire tutto bisognerebbe appiccicarsi accanto alla scrivania, immagino, non so se tu Laura l'hai fatto insieme ad Antonella Olivieri, appunto una bella mappa di tutte questi intrecci e queste partecipazioni che appunto riguardano questo complesso delle telecomunicazioni internazionali. Contestualmente al Consiglio di Amministrazione di Telecom c'è anche il Comitato Esecutivo di Telefonica, gli spagnoli, che sono gli azionisti di Telecom, lo ricordiamo, attraverso Telco, la holding, ma sono in uscita. Esattamente, Telco è ancora in vita in realtà, ha ancora il 22,4% di Telecom, ma i soci hanno sostanzialmente chiesto la scissione del veicolo e quindi potenzialmente prima o poi si andrà alla ripartizione diretta con la consegna delle azioni Telecom. Telefonica ha più o meno valorizzato già o ha organizzato una possibile valorizzazione di parte del pacchetto con l'emissione di un futuro bond convertibile, l'altra parte in realtà invece al momento non è ancora soggetta a vincoli particolari, se non che però appunto come dicevi tu Telefonica improvvisamente ha deciso di interessarsi a GVT, ha presentato una prima offerta per GVT che tra l'altro tra le varie opzioni contemplava anche quella di offrire a Vivendi una componente cash e una parte di azioni Telecom. Ora il comitato esecutivo di Telefonica è al lavoro per rivedere quell'offerta perché comunque Vivendi non era particolarmente interessata alla struttura di quella proposta iniziale, quindi anche Telefonica si prepara a rilanciare su GVT. Secondo te in questo momento sul tavolo del Consiglio di Amministrazione appunto di Telecom quali sono i nodi principali dei quali si sta discutendo per appunto finalizzare poi tutta questa partita? Beh, allora, indubbiamente i due elementi principali allo studio dal punto di vista finanziario sono il combinato disposto, cioè il mix azioni cash da offrire, cioè quante azioni Telecom Italia offrire, quante azioni Team Brasil offrire e quale componente cash. Ricordiamo che Telecom ha un debito abbastanza importante e quindi non può andare a incidere ulteriormente sulla sua posizione finanziaria netta, quindi deve trovare il mix perfetto di queste tre componenti. L'altro aspetto chiave è sicuramente la governance. A Vivendi si offrirà potenzialmente un pacchetto importante di azioni Telecom, si è sempre parlato di un 15-20%, un pacchetto quindi rilevante ma che sulla carta, considerato come sono andate le ultime assemblee della compagnia, quella di aprile e quella ancora del dicembre scorso, non garantisce il controllo della società. Quindi evidentemente andrà offerto qualcosa di particolarmente allettante anche dal punto di vista della governance, sebbene si dica che Vivendi non abbia chiesto deleghe particolari, ma si presuppone sicuramente quantomeno una presenza in consiglio di Telecom. Un'ultima domanda, Laura, poi naturalmente ti lasciamo ad andare a districare, a dipanare la matassa, come l'abbiamo chiamata dall'inizio. Il titolo oggi ha fatto più 3,17%. Secondo te di tutte queste notizie, di tutte queste novità, che cosa apprezza particolarmente il mercato, che naturalmente innesca immediatamente la speculazione quando comunque in ogni caso merger and acquisition, per dirla all'americana, appunto si mettono in moto. In questo caso appunto qual è l'aspetto di rilievo per il mercato? Allora, il mercato privilegia sempre gli aspetti finanziari e meno quelli industriali. L'offerta che Telecom sta facendo per GVT ha un progetto industriale. La potenziale offerta che UI potrebbe fare per Team Brasile ha connotati esclusivamente finanziari. E in questo caso, posto che gli analisti e posto che gli operatori hanno sempre sollecitato una possibile valorizzazione di Team Brasil, mi viene da pensare che stiano valutando positivamente questo elemento nuovo emerso in mattinata. Stavo anche qui intanto nel frattempo curiosando sul grafico del titolo, aprendo le nostre piattaforme. In ogni caso, rispetto ai massimi eccezionali, appunto, per esempio gli ultimi sono stati attorno al 2007, il titolo ancora è ben sotto, per cui hai voglia qua a movimentarsi, infatti la speculazione. Grazie a Laura Galvagni del Sole 24 Ore, buona serata. Buonasera. Adesso lasciamo le telecomunicazioni, lasciamo i mercati. Allora aspettate un attimo, c'è qualche ascoltatore che subito prontamente segnala, non ha detto tutti gli altri indici. Allora, visto che abbiamo tempo oggi, facciamo un punto della situazione. Per Parigi più 0,04%, Francoforte meno 0,19%, Londra più 0,12%, Wall Street è tutta positiva, poco al di sopra della parità, Milano, regina d'Europa, più 0,57%. Da segnalare che stamattina l'euro era attorno a 1,31,85-87 sul dollaro, dopo le parole di Schäuble ha ripreso quota, poco fa ha rifatto una puntatina sopra 1,32, adesso ritorna indietro 1,31,93. L'ultimo tema di stasera, parliamo di moda Milano. Hey. attimo parlare un po' di shopping e vestiti. Michela Finizio, Il Sole 24 Ore, buonasera. Sì, buonasera, ciao, salve a tutti. Allora, invece parliamo della Galleria Vittorio Emanuele, dove sono concentrati alcuni negozi delle più importanti grif mondiali, al centro in questi giorni di questa sentenza del TAR, appunto, che ha bocciato sostanzialmente una delibera comunale, una situazione anche questa un po' intricata, quasi quanto quella di Telecom che abbiamo raccontato prima. Allora, intanto il TAR che delibera comunale ha bocciato, e per quale motivo appunto poi il mondo della moda si è abbastanza sollevato rispetto a questa decisione, Michela? Sì, allora è di ieri questa sentenza del TAR che ha bocciato una delibera con cui il Comune ha stabilito, il Comune di Milano, questo nel 2012, di raddoppiare il canone d'affitto ai negozi come Prada, Versace e Armani, che subentrassero, insomma, nei negozi della Galleria Vittorio Emanuele in caso appunto di subentro a un contratto d'affitto esistente. Ora, questo il TAR l'ha giudicato illegittimo e lesivo della concorrenza, e tra l'altro ha accusato il Comune di fare cassa non nell'interesse pubblico. Quanti anni è andato avanti questo giochetto, diciamo, del Comune di Milano, che ovviamente approfittava di questo ricambio continuo, diciamo, dei titolari dei negozi? La cessione dei rami d'azienda, come vengono chiamati poi i subentri all'interno della Galleria Vittorio Emanuele, è una pratica da lungo tempo che viene lasciata in mano alle trattative dei privati. In questo caso il Comune di Milano ha cercato di porre delle linee guida che però sono state giudicate appunto lesive della concorrenza da parte del TAR, e che chiaramente oggi mette in discussione quelli che sono stati i contratti d'affitto stipulati in questi anni, dal 2012 ad oggi, da questi grandi marchi della moda, che peraltro avevano contestualmente al subentro in galleria firmato un accordo di sponsorizzazione sostanzioso pari a 3 milioni di euro per restaurare la galleria stessa, insomma. Qual è l'effetto pratico, poi ti salutiamo, Michela, di questa decisione del TAR che ha bocciato questa delibera comunale, appunto, che effetto si apre? Ecco, in questo momento si aprono fronti giudiziari e amministrativi, perché bisognerà aspettare, probabilmente il Comune farà ricorso in appello al Consiglio di Stato, e soprattutto bisognerà vedere a questo punto se i contratti firmati da Prada, Armani, Versace, quindi anche la stessa sponsorizzazione dei lavori di restauro, saranno considerati validi nei vari giudizi. Però, insomma, ancora una volta un po' la giustizia che blocca investimenti, come segnala anche l'analisi di Paolo Bottelli su questo caso questa mattina sul Sole 24 Ore. La galleria, un asset da difendere e se possibile valorizzare in vista di Expo 2015. Grazie a Michela Finizio, grazie a Mauro Del Corno per la collaborazione in redazione, Pietro Lacorte in assistenza tecnica. Io ho terminato, torno domani a Cuore Denari. Buona serata a tutti. Radio 24, la passione si sente.